Investire informati. Ehi, hey, Gordon! Ti trovo bene? Mio Dio! Bud Fox, gli anni sono passati anche per te. Come si chiamava quella linea aerea Blue Star? Continua a darti sempre molto da fare? Beh, dopo quella breve parentesi che tu sai, l'ho trasformata in una delle più grandi società di brokeraggio aereo del mondo e poi l'ho venduta. Ha un sacco di soldi. Ah, questa è la cosa importante, solo questa. E di che cosa ti occupi adesso? Di me stesso. Golf, inverno ai Caraibi, a St. Barts. Faccio il filantropo. Ah. Beh, allora ci si vede in giro, Gordon. Sta fuori dai guai. Insomma, chissà se anche noi, se avessimo investito per tempo a Wall Street, magari in questo momento, invece di stare davanti a questo microfono, Nicoletta, staremmo a giocare su un campo di gocciolotti. Vedi, io e te che giochiamo a golf, figurati, guarda. Detto ciò, allora, prima o poi abbiamo ripreso naturalmente un brano tratto da uno dei film che appassionano di più coloro che investono sui mercati finanziari, quindi Wall Street, il denaro non dorme mai. Prima o poi però si metterà un po' a dormire, si fermerà e soprattutto speriamo che non si faccia male a nessuno. Stiamo parlando di Wall Street, il mercato americano che sta continuando a correre senza sosta. Proprio ieri sera c'è stato un nuovo record per tutti gli indici. Per la quinta volta di fila Dow Jones, Standard & Poor's e Nasdaq hanno chiuso la stessa seduta a livelli record e ieri sera si è messo insieme a loro anche il Russell 2000, l'indice delle aziende a piccola capitalizzazione, che ha a sua volta raggiunto livelli mai visti prima ed è stata la prima volta, pensate, dal 19 giugno del 95 che tutti e quattro gli indici americani hanno toccato record nella stessa giornata di scambi, appunto per l'ennesima giornata consecutiva. Lo sappiamo, ci sono tutte le attese attorno alle promesse per un taglio delle tasse, appunto, del presidente Donald Trump, e una circostanza che genera ottimismo per l'andamento dell'economia e ottimismo anche per l'andamento dei mercati. Però quello che ci piacerebbe appunto capire, a prescindere dalle premesse di Trump, è quanto gli operatori pensano che tutto ciò possa durare. Soprattutto proviamo anche ad esprimere delle raccomandazioni per quei risparmiatori che magari rischiano di fare gli errori tipici di questi momenti, essere contagiati dall'euforia quando in realtà comincia ad essere troppo tardi. Buongiorno a Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame Asset Management, e benvenuto a Cuore Denari, anzi bentornato, perché lei anche un'altra volta è stato nostro ospite. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, un record dietro l'altro. Abbiamo già dato appunto alcuni numeri per capire dove stiamo andando. Stavo ricontrollando prima De Michelis che lo Standard & Poor's 500 il 26 febbraio del 2009 era a 750 punti. Adesso è a 2350 circa. Tutto ciò si deve a Donald Trump, dicevamo, c'è solo questo. Perché il piano di stimolo fiscale promesso dal neopresidente sembra essere così promettente per la borsa americana? Beh, innanzitutto vorrei anche ricordare che la volta in cui ci siamo sentiti alla radio è stato durante il crollo del mercato dell'agosto 2015, quando fui chiamato in una situazione completamente inversa e consigliai di non aver paura, ma anzi di investire, di sfruttare il momento che non c'era nessun cataclisma all'orizzonte. Allora, diciamo che una cosa, se avessimo preso colto il suo messaggio, mi sta dicendo Nicoletta, magari a quest'ora saremmo un po' più sorride. Gesti. Io lo metto diciamo come base di partenza. No, è interessante il fatto che appunto adesso che la borsa americana è sui massimi, gli investitori vogliono investire. Certo. Il problema è che spesso e volentieri il grande errore che fanno gli investitori è proprio quello di entrare quando i prezzi sono già saliti moltissimo. Allora, c'è da dire che sicuramente prima le banche centrali, in particolare la Fed, ha avuto un approccio molto proattivo, no, nei confronti dell'economia, quindi ha fatto, facciamo riferimento al 750 del 2009, ma addirittura intraday aveva chiuso anche toccato dei punti inferiori. Diciamo che la banca centrale, la Fed, è stata appunto molto dinamica e questo ha stimolato molto dal punto di vista monetario l'economia. Adesso Trump che cosa ha fatto? Sta prendendo in mano lui il timone e spinge con appunto il ribasso delle tasse, un grosso piano di investimenti nell'infrastruttura, e quindi tutto questo, una deregulation anche per quello che riguarda il settore settore bancario, e quindi tutto questo spinge chiaramente sulle aspettative degli utili. Per darvi un'idea, gli utili, le aspettative, se apro Bloomberg vedo che per il 2018 ci si aspetta $130 aggregati per l'S&P, nel 2019 145, nel 2020 161. Ci può tradurre questo concetto per i nostri ascoltatori che non hanno confidenza con il gergo di borsa? Che cosa vuol dire queste cifre che ci sta indicando? Appunto, lei sta parlando naturalmente delle promesse di utile che potranno raggiungere i bilanci delle società quotate, chiaramente. Esatto, vuol dire che sostanzialmente in questo momento le aspettative degli utili delle aziende che fanno parte dell'indice Standard & Poor's 500 sono molto, diciamo, alte. Quindi ci si aspetta che questo enorme piano di Trump, no? Il Trumponomics, certo, faccia guadagnare molto le aziende. Questo fa sì che se le cose andranno in questo modo, i valori attuali dello Standard & Poor's paiono giustificati. Okay? Ma qui viene fuori il problema che qualora qualcosina andasse storto, potrebbe essere invece un problema, perché chiaramente poi appunto le grandi aspettative dopo che erano le grandi delusioni. E certo, basti tante volte controllare un po' cosa succede quando le società pubblicano le loro trimestrali, no? Magari sono delle trimestrali molto soddisfacenti, molto buone, ma se mancano di un po' le aspettative del consensus del mercato, ecco che i titoli crollano, per cui ecco, attenzione anche alle aspettative esagerate. Per e la prima volta sulle guidance future, cioè se dicono che è stato un ottimo anno, però per l'anno prossimo ci aspettiamo qualcosina in meno, ecco che crollano appunto proprio per certo. Il discorso immediato. Senta De Michelis, allora dicevamo di questi record, particolarmente è stato enfatizzato quello dello Standard & Poor's 500 che ha toccato quota, peraltro in termini di capitalizzazione, 20.000 miliardi, superando il valore dell'intero PIL americano, quindi pensate che cosa ci racconta, cosa ci esprime la borsa americana. Tra i settori appunto che hanno beneficiato di più di questa corsa c'è stato indubbiamente anche quello tecnologico, e anche in questo caso basti segnalare il caso di Apple che sta registrando prezzi da capogiro. La Silicon Valley, di nuovo la terra promessa di tutti, c'è sostanza dietro ai record del settore tecnologico, anche qui bisogna prendere un po' le distanze da tutto questo. Le chiedo anche un po' di sintesi, De Michelis, perché poi vorrei farle l'ultima domanda e andare a raccontare la borsa di oggi. Sì, diciamo che allora sostanza ce n'è sicuramente, perché appunto gli utili di Apple sono veri, sono reali, sono oramai alcune azioni tecnologiche sono un pochino come quello che una volta potevano essere la General Motors e la Ford degli anni 50-60, oggi sono i grandi industriali sono quelli. C'è sicuramente della sostanza, però attenzione che anche in questo caso appunto le aspettative sono abbastanza alte, perché l'attuale appunto valore prezzo utile è intorno a 22, però sulle aspettative future di utili importanti scenderebbe a 17. Quindi, come dire, aspettative molto alte, bisogna fare un filo di attenzione. Certo, a proposito allora di questa attenzione, andiamo subito alle raccomandazioni ai nostri ascoltatori, ricordando anche che inizierà e si intensificherà il percorso di restringimento, appunto, di aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana, e secondo anche le testimonianze rilasciate proprio in questi ultimi due giorni al Congresso americano da Janet Yellen, il prossimo aumento verrà sicuramente, quasi sicuramente, fatto a marzo, e forse gli aumenti di quest'anno potrebbero essere più dei tre già digeriti dal mercato finanziario. Anche in prospettiva di questo, diamo due raccomandazioni finali, De Michelis, ai nostri ascoltatori, soprattutto a quelli che non hanno tanto confidenza con i mercati ma adesso sono stuzzicati da questo andamento così positivo, pensano che possa continuare all'infinito e vogliono salire adesso su questo treno in corsa. Cosa dobbiamo fare? Attenzione. Allora, la prima raccomandazione è evitare il fai da te, a meno che non sia degli esperti. Quindi ci sono degli ottimi fondi long short a disposizione anche per la clientela retail, che fanno proprio questo tipo di mestiere, di andare a selezionare i settori più promettenti. Per coloro che invece hanno, diciamo, la capacità di poter tradare, selezionare anche per conto proprio, io credo che sia in atto una rotazione da quelli che una volta erano le cosiddette azioni considerate quasi bond, come consumer staples, che potrebbero soffrire proprio per questo rialzo dei tassi atteso, anzi posizionarsi su diciamo tipo i financial, per fare un esempio. Titoli finanziari, quindi prima parlava di beni durevoli. Anche per traduciamo esempio, un po' per i nostri ascoltatori, sì. Sì, piace molto per esempio il biotech più che il settore tech. Delle biotecnologie, esatto. Esatto, perché per esempio nel biotech c'è stata già una correzione, quindi da valori molto alti c'è stata una correzione e ora viaggiano a dei multipli interessanti. Certo. Quindi primo consiglio sicuramente il possibile affidarsi a dei bravi gestori, ma per coloro che invece gli piace tradare per conto proprio, evitare le azioni tipo Coca-Cola, Walmart, no, Dr. attenzione Pepper. Ai suggerimenti d'acquisto, se no arriva all'ufficio legale del Sole 24 Ore e bacchetta anche me. Quindi evitare che settori, per esempio, secondo il suo giudizio adesso? Evitare consumer staples, per intendersi. Che sono appunto le... Largo consumo, tutto ciò che è attinente consumo, appunto con il consumo cibo, americano. Ecco qua. Cibo, beverage. E questa è naturalmente la sua indicazione. Grazie a De Michelis, Frame Asset Management. Ci fermiamo adesso, vi racconto la borsa odierna per poi andare invece al tema dei diamanti che ci avete intanto chiesto di affrontare. Noi siamo pronti. Cuore e denari. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Quelli che però si portano al dito, almeno nell'immaginario collettivo. Sì. Allora, i diamanti. Quando i mercati finanziari fanno tremare i polsi, come è accaduto più volte negli ultimi anni, sappiamo bene cosa cercano i risparmiatori. Il porto sicuro, il rifugio, visto che i titoli di Stato non rappresentano più, visto che i conti di deposito, per esempio, rendono sempre meno, visto che molti hanno capito che anche l'oro ha perso questa caratteristica, ecco che tra le alternative che si sono fatte strada ce n'è una che l'anno scorso di strada ne ha fatta proprio tanta. Parliamo in Italia, appunto. Parliamo dell'investimento in diamanti ed è una corsa che non è certo passata inosservata. In primo luogo perché i numeri descrivono un boom che ha dell'incredibile nella distribuzione, ma al contempo in molti hanno anche sollevato la questione dei prezzi a cui i diamanti vengono fatti acquistare attraverso il canale bancario e la questione della liquidità. Se si vogliono rivendere ci si lamenta che il riacquisto non avviene a condizioni soddisfacenti per il piccolo risparmiatore e per l'investitore. E anche da tutto questo hanno mosso la loro iniziativa due associazioni dei consumatori e il principale player di mercato che hanno deciso di aprire un tavolo di confronto per arrivare a stilare un codice deontologico dell'investimento in diamanti. Allora stamattina ne parliamo con i diretti interessati. Grazie per essere con noi e buongiorno a Maurizio Sacchi, amministratore delegato di Diamond Private Investment. Benvenuto. Buongiorno. Grazie Sacchi. Buongiorno a voi. E buongiorno anche all'avvocato Francesco Luongo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Per dovere di cronaca, naturalmente, dobbiamo anche ricordare che di recente l'Antitrust, l'autorità garante del mercato, ha avviato due istruttorie per pratiche commerciali scorrette verso le due più importanti società, appunto, che distribuiscono i diamanti attraverso il canale bancario. Una è proprio la Diamond Private Investment e una è IDB Intermediazioni. Adesso ne parleremo. Però volevo partire proprio con Sacchi per farci raccontare, e naturalmente ci sono come sempre i microfoni aperti per i nostri ascoltatori, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta sul tema di questa mattina. Sacchi, volevo cominciare con lei perché mi sono andata un po' a ripescare anche alcuni articoli del Sole 24 Ore degli ultimi mesi che raccontassero questo che è stato un vero e proprio fenomeno, e a questo argomento anche un commento del vice direttore del Sole 24 Ore Alessandro Platerotti, appunto, è stato dedicato, in cui si diceva che i diamanti 10 anni fa erano un mercato addirittura da considerarsi quasi inesistente. Ora fanno concorrenza ai titoli di Stato. In Italia il fenomeno è dilagante, scriveva Alessandro. L'acquirente tipo non è affatto il classico cliente del private banking, quindi un portafoglio molto, come dire, importante, di dimensioni rilevanti, ma oggi è diventato anche un investimento per pochi. Qual è oggi il profilo dell'investitore in questo settore, Sacchi? Ma intanto buongiorno. Il profilo degli investitori ovviamente è quella parte di clientela che a livello bancario appunto ha modo di diversificare. Noi come società abbiamo da sempre introdotto una pratica molto chiara in cui noi consigliamo che l'investimento in queste forme deve essere non oltre il 5% del capitale del cliente, per cui l'importante è che venga visto in queste formule. Ovviamente l'investimento minimo, parliamo di 4.000 euro, quindi il 5%, vuol dire che un cliente che già ha una disponibilità di 100.000 euro può incominciare a essere un cliente che si può avvicinare a queste formule. L'importante è che questo prodotto venga ben spiegato e sia ben chiarito che il diamante non è un prodotto finanziario, uno strumento finanziario, ma appunto è un bene reale. Che è come un po' come la casa, esatto, infatti lì volevo arrivare, che non ha un'immediata liquidità, ecco, un po' per avvicinare. Esatto, non può avere un'immediata, un mercato estremamente liquido, anche se le rivendite in questo settore comunque sono molto, molto poche. Sono veramente, rappresentano lo zero virgola. Quanto per tengono in media questo investimento i risparmiatori italiani che hanno sottoscritto l'investimento in diamanti? Noi consigliamo un investimento che non deve avere un timing specifico, un tempo di un certo tipo. È un po' come un immobile, appunto. Se io acquisto un immobile, non lo compro perché lo devo rivendere tra 3 anni perché mi arriva il 3% all'anno. Io compro i diamanti, li metto lì e poi se domani ne ho bisogno so che li posso rivendere sempre tramite il canale da cui sono entrato, altrimenti può rimanere lì 5, certo. 10, 20 anni, 20 generazioni, non c'è un timing specifico. Consideriamo che i prossimi anni saranno anni incredibili in cui i diamanti avranno veramente delle crescite enormi perché stanno esaurendosi totalmente, si parla e ci sono degli studi della Bain eccetera che dicono che i diamanti entro il 2020 dovrebbero ricominciare a diventare rarefatti e dal 2030 in poi sparire veramente, per cui avere in mano oggi dei diamanti di qualità eccetera è sicuramente un modo interessante per poter diversificare una piccola parte marginale, certo, di un patrimonio. Allora senta Sacchi, che differenza c'è fra quello che acquisto in banca, che generalmente è all'interno di una determinata confezione, e quello che invece acquisto sotto forma di anello incastonato appunto in gioielleria? Sono due servizi differenti, ovviamente, perché questo non toglie che quello che compri in banca, se io vado in gioielleria me lo posso far mettere in un anello. Sì, no? Sì, sì, ah, certamente, ecco. Però non è questo il fine ultimo. Certo. Se uno deve comprare un gioiello, noi diciamo sempre vai in gioielleria perché quello è il lavoro loro, il gioielliere è un esperto di diamanti, ti può consigliare la pietra più adatta a te, la montatura, eccetera. Per noi è importante che il cliente che investe in diamanti deve avere intanto diamanti certificati, sigillati, tatuati e garantiti dagli unici due istituti riconosciuti dalle borse mondiali del diamante, che sono una di New York e una di Anversa, della Carrerie Lagier. Sono poi accompagnati da un'assicurazione di una primaria compagnia internazionale contro furto e rapina, se custoditi in cassetta di sicurezza o in cassaforte a casa. Sono etici, quindi rispondono a tutte le caratteristiche di eticità, eccetera. Qui guardi, non aprirei questo dibattito perché poi è un po' come quando si parla con Nicoletta dei vegani eccetera, perché qua in realtà è un tema sul quale c'è molta sensibilità, sì, se però lei lo dice, quindi anche l'estrazione. I diamanti che arrivano da questi due certificati, da questi due istituti, sono accompagnati da un certificato che si chiama Kimberly Process Certification Scheme, che attesta tutta la filiera della pietra. Poi ovvio che noi non stiamo lì a guardare da dove arriva e come arriva, noi però, ci garantiscono così, si figuri borse, noi appunto, quindi diciamo che però noi abbiamo questa garanzia in più che arriva, certo, dalle borse. Senta, allora mi dice per quale motivo io le ho lasciato naturalmente raccontare il suo mondo, che certamente sulla carta è indubbiamente interessante. Siamo d'accordo nel fatto che esattamente come per tutti i tipi di investimento anche questo va ben spiegato al sottoscrittore finale, al risparmiatore finale. Allora perché, certo, tutta questa polemica? Adesso lasciando da parte il report e tutto quello che ha fatto, perché insomma tutta questa contestazione relativa alla mancata liquidità? C'è un ascoltatore che già ci scrive, Sergio, adesso non so se riusciamo a metterlo in diretta, che dice: è stato invitato dalla banca ad acquistare questi diamanti, quando poi è andato a rivenderli gli hanno dato un terzo di quanto lui pagato. No, si svaluta non è possibile. Lei non dice è possibile. Di no. Sono fandoni, mi permetta, ma chi ha investito in diamanti magari non erano i suoi. Ma se l'ha comprato in banca, assolutamente siamo due le società. Adesso lo ripeschiamo Gianni da Roma, vediamo cosa ci racconta dalla sua viva voce. Sono due le società che operano in questo settore, nel settore diamanti in Italia da 40 anni, noi da 12. I clienti, non esiste un cliente che si è lamentato mai, che non ha mai disinvestito o che ha perso dei soldi. Chi investe in diamanti sa che chi compra i diamanti avrà, nel momento che vorrà venderlo, una commissione pari al 10%, punto, quindi il valore di quel giorno meno il 10%, e questo sono i denari che il cliente si riprende quando lo andrà a rivendere. Ovvio che noi non garantiamo il riacquisto, ma noi garantiamo l'impegno al ricollocamento su un mercato secondario. Quindi lo potete ricomprare solamente se voi avete la garanzia che potete contestualmente rivendere. Certo. Sennò diventeremo uno strumento finanziario, cosa che Consob ha già detto più volte: il diamante non è uno strumento finanziario, quindi non è regolamentato dal TUF, quindi dal testo unico della finanza, sì. E quindi non è un prodotto appunto che soggiace alle regole del allora, prodotto, ma è un bene reale. Cuore e denari. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Beh, anche le cantanti si sono divertite esatto, sul settore. Francesco Luongo, l'avvocato, il nostro avvocato, il nostro amico avvocato, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, che insieme a Codacons appunto ha creato questo tavolo di discussione con Diamond Private Investment proprio per arrivare all'elaborazione, come dicevamo, di questo codice deontologico. Non è certo la prima volta che le associazioni dei consumatori si interessano al mondo del risparmio e degli investimenti. Cosa vi ha mosso in questa occasione, perché avete accettato la proposta di aprire questo tavolo di confronto? E soprattutto, avvocato Luongo, ricevete delle segnalazioni, le stesse un po' che riceviamo noi questa mattina, o lamentele, tra virgolette, da parte dei consumatori e risparmiatori insoddisfatti di questo tipo di investimento? Bisogna dire questo: nell'anno del grande disastro del risparmio gestito, degli investimenti in strumenti finanziari, obbligazioni, polizze. Quali dei tanti degli ultimi anni? Tantissimi, tenga conto che oggi si riunisce apposta il tavolo per cercare di risolvere la questione dei fondi delle immobiliari. Delle poste, lo so. Ce l'abbiamo domani, infatti, già in programma. E quindi siamo sul pezzo, come sempre, anche qui su Radio 24. Ecco, un nuovo tipo di investimento, che più che un investimento è un acquisto di un bene durevole con cui il piccolo risparmiatore cerca di tutelarsi dalle montagne russe di strumenti finanziari, titoli azionari e dai rischi ormai che esistono in base alla procedura del bail-in, anche per quanto riguarda le obbligazioni subordinate vendute a piene mani. Ci troviamo di fronte a questo nuovo mercato su cui bisogna intervenire educando il consumatore. È per questo che abbiamo accettato la proposta di DPI, che vogliamo però anche valorizzare con una campagna informativa adeguata, perché quello che manca al risparmiatore è l'informazione. Non possiamo parlare di un diamante, ce ne sono di tantissimi esatto, tipi. Infatti di alcuni ascoltatori tagli. Chiedevano proprio ma di che carature state parlando, dimensioni e quant'altro. Certo, noi abbiamo che nel listino Rapaport la matrice porta circa 1400 varietà di diamanti, quindi c'è bisogno adesso di mettere a punto un'informazione chiara che sia facilmente intellegibile dal consumatore che si approccia a questo mercato, che in termini di diversificazione può essere utile sicuramente al risparmiatore retail, ma è anche importante che noi andiamo a far luce su opacità in termini informativi che però attengono a tutta la catena distributiva, quindi non parliamo anche di un mercato di vendita di diamanti che si sviluppa direttamente alla banca, allo sportello bancario. A livello bancario abbiamo un anello della catena che è quello appunto della banca, anche le banche devono entrare in questo tavolo. È necessario, è fondamentale, perché sono loro che poi hanno il contatto con il cliente a cui propongono questa forma di acquisto investimento, così come però anche sulle gioiellerie e sul discorso legato alla vendita, alla compravendita di diamanti che si può legittimamente svolgere all'interno di questi delle gioiellerie, bisogna un attimo vederci chiarissimo chiaro. Quindi allora obiettivo invitare magari anche le banche e chissà anche le gioiellerie appunto a questo tavolo di confronto, con l'obiettivo di far capire bene di che tipo di investimento si tratta, con tutti i vantaggi che ne possono derivare, valore ma anche tutti quanti i rischi. Un paio di domande degli ascoltatori per poi andare già purtroppo verso la conclusione con Maurizio Sacchi, ma ci torneremo naturalmente dato l'interesse che appunto, come immaginavamo, ha suscitato tra gli ascoltatori. Velocissimi, Alessandro dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno signore, buongiorno. Mi approfitto dell'occasione. Io nel novembre del 99 ho voluto fare un piccolo investimento in brillanti. Ho acquistato un brillante da 1,09 carati. L'ho pagato 9 milioni e 300 mila lire, perché allora c'era ancora la lira, secondo il catalogo Rapaport. Attualmente ho voluto far valutare il valore, mi danno 2.300 euro, quindi la metà della metà del valore. Era un investimento, si immagini, una perdita netta. Grazie Alessandro. Vorrei sentire Sergio da Roma, buongiorno. Buongiorno, io anche ho acquistato tramite la mia banca due pietre da circa mezzo carato, credo 0,52 o qualcosa del genere, e quando le pietre sono arrivate c'è stato un messo proprio della società che mi ha fornito le pietre, che è venuto in banca e mi ha mostrato queste pietre, quindi le ho viste. In quell'occasione mi è stato detto che c'era la possibilità, ed ecco perché vi chiamo per sapere se è vero e come che prassi c'è, di poter utilizzare queste pietre, cioè non di tenerle comunque accantonate chiuse in cassetta di sicurezza, ma di poterle indossare. È vero questo? E se è vero, no, allora guardi, prima ci siamo andati molto superficialmente sul tema, ma penso proprio di sì, che nulla osta Sacchi, cioè voglio dire, ognuno ne fa anche quello, se le vuole mettere con una collalina al collo, esatto, le vuole incorniciare in cucina, le mette dove vuole. Certo, l'importante è che le pietre vengono aperte dal sigillo di fronte al cliente, vengano incastonate di fronte al cliente, il cliente se le porta a spasso e ci fa i gioielli che desidera. Se non sono nella custodia protettiva vostra, si usurano? I diamanti non si rovinano neanche a prendere la martellata, quindi non ci sono problemi. No, diciamo che il giorno che il cliente volesse ricollocare e rivendere i suoi diamanti, dovrà fare la procedura inversa, quindi i diamanti debbono tornare dentro quel blister, quindi noi dovremmo, adesso non so tramite quale banca l'ha comprato, ma comunque sia, che siamo noi o l'altra società, questi diamanti vengono rimandati ad Anversa, vengono risigillati, puliti, risigillati, controllati che siano gli stessi, e tornano giù per essere nuovamente venduti. Perché lo stesso, un terzo di quello che lui ha pagato. Gianni, non riesco a sentirla perché altrimenti chiudiamo la trasmissione solo con la sua telefonata, ma insomma il tema della svalutazione pesante, Sacchi. Allora, il discorso è questo, come ho detto prima, l'investimento che si fa in banca, l'acquisto di diamanti in banca, ha una quotazione, un listino fatto da noi che è pubblicato sui giornali economici. Per cui il cliente sa quanto compra, quanto paga il diamante, e sa anche il giorno che vuole rivenderlo che lo rivenderà al valore che trova sul giornale meno il famoso 10%. Quello è tanto però il 10%. Consideri che non c'è capital gain, che non c'è nessun tipo di costo, di fiscalità varia, quindi ci vorrebbe un po' di tempo per spiegare questa cosa, ma non credo che sia il momento. E comunque sia, è un costo veramente minimale, perché uno si compra la sicurezza di poter rivendere i propri diamanti. Ma non è solo quello, è che se, come il primo ascoltatore ha detto, ha comprato un diamante a 9 milioni e oggi gli hanno offerto 2.500 euro, probabilmente questo non è un canale bancario o delle società che operano con la trasparenza che noi da sempre portiamo avanti. Certo, il mercato, come diceva l'avvocato prima, c'ha un'opacità enorme. Noi quando siamo nati come società siamo nati proprio per portare avanti la trasparenza, e non a caso. E mi raccomando, insistete su questo. Ma ci sono delle situazioni anche al contrario, Sacchi, in cui magari da un investimento di una certa cifra, andandoli a rivendere, qualcuno è stato invece molto soddisfatto e ha portato a casa Tutti i nostri clienti che hanno rivenduto i diamanti nei tempi giusti, ovvio, perché se uno li compra oggi e li vendi dopo 6 mesi, ci rimetti il 10%, ce lo devi rimettere. Che vuoi fare? Il diamante non è che cresce il 10% all'anno, cresce il 2-3%. Per cui chi lo ha tenuto 5, 6, 7 anni sicuramente ha avuto dei ritorni e quindi ha guadagnato. Ha guadagnato perché si è rivenduto un bene, ripeto, non è un prodotto finanziario. Quindi Io oggi mi compro un diamante, domani lo rivendo tramite noi troviamo il mercato secondario e il cliente ottiene. Benissimo, dei soldi. Allora devo chiudere purtroppo, il tempo è terminato, ma ci torneremo indubbiamente per rispondere a tutte le curiosità degli ascoltatori, che comunque ci possono scrivere a cuoredenari@radio24.it. Io sono certa che Maurizio Sacchi si mette a nostra disposizione per dare delle consulenze tecniche, anche se volete proviamo un po' a vedere se anche noi possiamo dare il nostro contributo a questo, in questo codice deontologico. Logico, Nicoletta, che ne pensi? Ne penso esatto, assolutamente che noi piace bene di più portarli alle orecchie. E sto pensando che domani è venerdì 17. Uelà, gatti neri, scope, aglio. Esatto. Buona giornata a tutti, buona giornata domani.